nomadi assenze ti prendono per mano. La voglia di silenzio è una forma di peccato che squarcia l'innocenza, va oltre l'infinito. Ogni lacrima è storia, oasi notturne annullano la distanza ed il cielo è presenza. Nel deserto si impara ad ascoltare il ritmo del sale, della morte il sapore, della morte il sapore. La mia anima distaccarsi.